Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buon inizio settimana da Deborah Rosciani, bentrovati a Salva Danaio. Italiani in affanno con il mutuo, pronti a presentare dal 1 febbraio la richiesta di moratoria, ovvero di sospensione del pagamento della rata per 12 mesi. Si concretizza così finalmente l'accordo fra Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori, 13 le firmatarie, e oggi sulle Sole 24 Ore ci sono tutti i termini e le istruzioni per chiedere l'interruzione del pagamento. Nella prima pagina dell'inserto Affari Privati, intitolata "Lo stop al mutuo non frena i costi". Perché questo titolo? Perché chi chiede la sospensione deve concordare con la banca le modalità di restituzione di quanto non versato in questi 12 mesi, e le soluzioni possono essere diverse, perché può essere che la banca consenta di sospendere interamente la rata o permetta di sospendere la sola quota capitale imponendo di proseguire il pagamento degli interessi. E poi c'è un altro quesito: quando si tornerà a pagare, quale sarà l'importo della rata? Rischierà di rimettere in difficoltà le famiglie che hanno sospeso il mutuo? Come si fa a fare un calcolo di convenienza? Allora, su tutti questi punti ci interrogheremo questa mattina con Maximilian Cellino del Sole 24 Ore, che cura la pagina di questa mattina di Affari Privati. Maximilian, ciao, bentornato. Buongiorno. E ben ritornato anche, ben ritornata all'avvocato Maria Stella Anastasi, segretario della Lega Consumatori. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. 800 24 0024, numero verde per le vostre domande, 349 238 6666, numero verde per i vostri messaggi. Allora, un'occhiata alla borsa prima di entrare nel vivo del tema di questa mattina, che so che molti di voi ci hanno chiesto appunto di approfondire, esattamente come tutti quelli che interpellano Maximilian attraverso le pagine del suo blog, sul sito del Sole 24 Ore, attraverso il Quotidiano, ma anche l'Associazione dei Consumatori. Erano già pronti tanti utenti delle varie associazioni appunto che hanno aderito all'accordo per chiedere le modalità operative di sospensione. Poi di questo appunto ci parlerà l'avvocato Anastasi per capire quali sono le domande più diffuse, ma soprattutto anche per capire quali sono gli ostacoli, che tutto sommato ancora ce ne sono diversi, che non permetteranno a molte famiglie che ne hanno comunque necessità di sospendere la rata. Allora, la borsa, prima di partire con tutto questo, borse stamattina piuttosto positive, addirittura in un momento anche piuttosto euforiche, molti indici sono arrivati a guadagnare oltre un punto percentuale. Adesso limitano, si ridimensionano un po' queste corse, ma tutto sommato c'è una situazione piuttosto positiva stamattina in Europa, più 0,75% per l'indice francese. Francoforte guadagna lo 0,58, Londra lo 0,82, Milano era tra le migliori piazze, guadagnava oltre un punto, adesso FTSE MIB più 0,68%. A correre stamattina sono Pirelli più 2,26. Unicredit parte l'aumento di capitale, il titolo anche oggi in rialzo di 2 punti. Io vi ricordo che mercoledì dedicheremo la puntata di Salva Danaio alle caratteristiche di questo aumento di capitale, e cercheremo appunto di spiegarlo a tutti, anche i piccoli azionisti che sono in ascolto. Eni e Saipem in rialzo di oltre un punto e mezzo, corrono dietro al petrolio che è ritornato a $83 al barile. Atlantia, la ex autostrada, rialzo dell'1,08%, Prysmian più 0,97, Tenaris più 0,94, quindi come vedete l'energia corre tutta stamattina a Milano. Scende di un punto, anzi di 2 punti, in pregilo Buzzi Unice, ma meno 1,84, quindi stamattina sono un po' le costruzioni il mattone a scendere. Mondadori partito bene fra i migliori titoli, adesso perde 1,5 punti con Parmalat, ribasso di 1 punto per il Banco Popolare. Rapporto euro-dollaro a 1,45,38. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi, ritorniamo sulla moratoria dei mutui. Il 2010 è iniziato con una piacevole sorpresa per chi è alle prese con il pagamento delle rate del mutuo. Nei primi giorni dell'anno, infatti, l'Euribor a 3 mesi, il parametro a cui sono agganciati i mutui a tasso variabile, ha toccato un nuovo minimo storico a quota 0,692%. Certo, si tratta di movimenti quasi impercettibili ai fini del calcolo della rata, ma è la tendenza ad essere significativa. Se è vero che i margini di ribasso per il mercato monetario sono ormai limitati, è anche vero che la risalita sarà probabilmente ancora più graduale di quanto ci si attendeva. Ma le buone notizie non sono finite. Tra pochi giorni, infatti, prenderà il via anche la moratoria sul pagamento delle rate lanciata nei mesi scorsi dall'ABI. In particolare, l'operazione, che rientra nel cosiddetto piano famiglie, riguarderà i mutui inferiori a 150.000 euro per l'acquisto dell'abitazione principale, con il reddito del mutuatario che non dovrà superare i 40.000 euro annui. L'iniziativa, che partirà il 1 di febbraio, prevede la possibilità di sospendere fino a 12 mesi i pagamenti per i titolari di mutuo che abbiano subito negli ultimi tempi un evento sfavorevole: perdita del lavoro, cassa integrazione, morte di uno dei componenti del nucleo familiare percettore di reddito. Circostanze che devono essersi verificate tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2009. 800 24 00 24 è il numero verde a vostra disposizione per le vostre domande, oppure il numero per i vostri messaggi è il 349 238 6666. Nella nostra scheda abbiamo dato, come ci era già capitato di fare in altre puntate di Salvadanaio dedicate a questo argomento, abbiamo dato le condizioni molto generali di questo accordo, ma quello che dobbiamo ricordare è che ogni banca, anche se aderisse, come stanno già facendo, a questo a questa iniziativa, ogni banca può concordare con il proprio cliente anche delle condizioni migliorative, se si vuole, dei termini appunto pattuiti in termini globali appunto tra ABI e associazione dei consumatori. E un'altra cosa che vorrei precisare è che, se anche abbiamo detto appunto nella nostra scheda, così come trovato scritto nel pezzo di Maximilian Cellino questa mattina sul Sole 24 Ore, abbiamo detto sì, si parte il 1 febbraio, ma dal 1 febbraio, dobbiamo essere molto precisi su questo, Maximilian, magari partiamo proprio da questi punti. Si può partire con l'inoltro della domanda, poi naturalmente c'è tutta l'istruttoria da avviare, la banca deve valutare se il cliente che fa richiesta ha i requisiti e le condizioni per poter accedere a questa sospensione, a questa moratoria, il che significa che, per chi anche ne avesse il diritto, prima probabilmente di marzo-aprile la sospensione della rata credo che non la possa vedere. Allora, prima di marzo sicuramente no. Per un semplice motivo: uno presenta, facciamo un esempio molto pratico, uno presenta, ma per veloce che possa essere, presenta il 1 febbraio la propria richiesta, dopodiché la banca deve valutare se possiede dei requisiti, la banca ci metterà, veloce che possa essere, ma mettiamo che li valuti anche lo stesso giorno, poi la banca ha anche 45 giorni di tempo per attivare la sospensione, 45 giorni lavorativi di tempo per attivare la sospensione. Mettiamo che la banca sia straveloce anche in questo caso, come giurano dall'ABI e come giurano molte banche, poi vedremo all'atto pratico. Mettiamo che il 10 di febbraio decida di sospendere, la rata di febbraio è già stata contabilizzata, per cui quella che si paga il 1 di marzo, perché ricordiamo che la maggior parte dei mutui funziona in questa maniera: la rata viene contabilizzata in anticipo e poi viene pagata il 1 del mese successivo. Quindi, bene che vada, sarà dalla rata di marzo in poi. Poi mi permetto un po' di avere qualche dubbio, e noi anche nell'articolo di oggi scriviamo dalla primavera, da aprile-maggio, vedremo se saranno così rapide le banche nell'attuare la sospensione. Però non è che uno sospende già dal 1 febbraio, ecco. Questo deve essere molto chiaro. Maria Stella Anastasi, avvocato Anastasi, segretario della Lega Consumatori, un accordo che avete voluto fortemente, intorno al quale avete lavorato in particolar modo alcune associazioni dei consumatori dalla scorsa estate, perché da mesi insomma denunciamo come molte famiglie si trovino in difficoltà. Prima le difficoltà legate all'esplosione della rata per i tassi interbancari schizofrenici, e poi la perdita di molti posti di lavoro nel nostro paese, pertanto l'incapacità per molte famiglie di onorare questo impegno mensile. Da questo accordo rimangono fuori purtroppo molte categorie di lavoratori, probabilmente forse si dovrà anche tornare a discutere un po' con le banche per far fronte anche a questo, però insomma è un accordo che tutto sommato vi ha soddisfatto. Ne ritorniamo un po' a sentire anche Ma i giudizi generali. Accordo... diciamo di base, sul quale le associazioni sono state molto chiare con ABI, chiedendo innanzitutto che le banche rimangano il più possibile flessibili, quindi che ci sia la maggior flessibilità possibile, che non ci si rigidisca sui dati e sui numeri indicati nell'accordo, gli importi eccetera, e soprattutto, come diceva lei, la necessità sicuramente di rivedere soprattutto l'aspetto che riguarda le persone, comunque le cosiddette partite IVA, che sono partite IVA spesso reali, cioè i piccoli artigiani, i piccoli imprenditori che hanno il mutuo per la casa della loro famiglia, quindi che non riguarda l'attività commerciale, artigianale eccetera, ma il mutuo della casa di famiglia, che ovviamente anche loro sono in difficoltà, anche loro spesso hanno chiuso, cessato l'attività. Ci sono anche nella nostra regione, in Lombardia, ci sono molti casi. Faccio un esempio, il settore della pelletteria, che sta attraversando una grossa difficoltà da molti mesi, ha causato molte chiusure di queste attività, piccoli laboratori artigianali che svolgevano questa attività e che quindi adesso si sono trovate in difficoltà. Ovviamente chi ha partita IVA ha una situazione più complessa, innegabilmente, anche a livello di dimostrabilità del fatto che non ha più lavoro, e quindi purtroppo da questo accordo è rimasto fuori. Noi stiamo lavorando in ogni caso direttamente con le banche, quindi gli utenti che arrivano alle associazioni con problematiche di questo tipo, che pur non rientrano ufficialmente nell'accordo sottoscritto il 18 dicembre, noi cerchiamo di far valutare alle banche caso per caso per vedere se c'è la possibilità comunque di andare incontro anche a questi casi particolari che pure non si è riusciti a far rientrare nell'accordo. C'è maggior flessibilità anche nel dialogare con queste persone da parte delle banche, mi risulta. Adesso noi siamo sempre pronti ovviamente qua ad osservare ogni comportamento che non ci risulta idoneo, che non ci risulta appunto opportuno, però tutto sommato ci stiamo lavorando. Sì, capisco che la difficoltà c'è, proprio perché è più difficile per una partita IVA dimostrare di aver perduto, quindi tranne quando magari questa partita IVA è stata proprio chiusa, però effettivamente il dialogo perlomeno si è aperto. Chi è stato nelle nostre associazioni in questi mesi facendoci presente questa difficoltà, perlomeno ecco, noi con le banche di riferimento stiamo lavorando, stiamo cercando di trovare una soluzione caso per caso, proprio perché ci si è resi conto che appunto bisogna comunque valutare le singole situazioni. Eh no, tra l'altro poi c'è un altro aspetto molto importante proprio relativo al fatto a chi è rimasto fuori dall'accordo. Parlavamo delle partite IVA, quindi dei lavoratori non dipendenti. C'è anche chi ha maturato una situazione di difficoltà ben prima del 2009, che è l'arco temporale coperto da questo accordo. Maximilian, cioè, che ha perso il posto di lavoro nel 2008 e che ancora non lo ha ritrovato, non si è ancora reimpiegato in qualche maniera e pertanto ha magari già fruito di una sospensione del mutuo perché con la banca è riuscito a mettersi d'accordo, ma adesso di fatto si trova in una situazione irrisolta, quindi probabilmente le banche dovranno affrontare molteplici problemi in questo frangente. Sì, lo andiamo dicendo da due mesi, da quando è stato attuato il piano famiglie, e lo ripetiamo ancora una volta stamattina: la flessibilità è la parola migliore da questo punto di vista, perché rischiamo veramente ad essere rigidi di escludere persone che veramente hanno bisogno. È chiaro che c'è molta gente che ha perso il lavoro nel 2008, la crisi è iniziata già prima, insomma, non è un mistero. Io vorrei aggiungere, ci sono anche questi tetti e limiti, che ricordiamoli, ricordava la scheda, ricordiamoli ancora, che sono 150.000 euro di mutuo, il mutuo del quale si chiede la sospensione, cioè non può superare 150.000 euro, l'importo iniziale, e il reddito del sottoscrittore deve essere inferiore a 40.000 euro. Sono dei limiti, a mio avviso, è ovvio che... Che tra l'altro sono molto migliorativi rispetto a quelli battuti da accordi individuali. Esatto, sono dei compromessi, sono sostanzialmente dei compromessi che sono venuti fuori nel dibattito tra le associazioni dei consumatori e l'ABI. Però per esempio anche un mutuo da 150.000 euro, io faccio due calcoli così, tenendo presente che in Italia mediamente si finanzia due terzi dell'abitazione. 150.000 euro vuol dire un acquisto di un'abitazione di 225.000 euro. In alcune zone potrebbe essere anche una villa, ma in zone come, io penso, Milano Roma, sì. È tutt'altro che una villa, è un semplice appartamento, e ci potrebbero essere persone che hanno richiesto mutui di più di 150.000 euro che giustamente possono essere in difficoltà. Ecco, da questo punto io confido ancora nelle banche, che presenteranno il proprio piano di adesione nei prossimi giorni, perché a tutt'oggi ne hanno presentato soltanto una decina. Abbiamo tra l'altro l'elenco sotto gli occhi, sono veramente dei piccolissimi istituti, esatto, di credito, soprattutto il credito cooperativo. Confido in tutti, confidano in un'estensione di questi limiti, o quantomeno in una gestione un pochino flessibile da parte delle banche, perché ricordiamo che è l'interesse del mutuatario, ma anche l'interesse della banca, non avere un mutuatario in difficoltà, perché la banca è contenta quando il mutuatario riesce a pagare regolarmente le proprie rate. Non è che la banca mira a prendere l'abitazione del mutuatario, anche perché si sa in Italia è un iter molto complicato, la banca non interessa assolutamente niente. E infatti, allora, noi prima abbiamo citato le cosiddette situazioni limite, quelle che non possono essere definite all'interno dei parametri appunto di questo accordo, come la situazione in cui si può trovare per esempio un ascoltatore di Bergamo, che è Narciso, che saluto. Narciso, sì, salve, ci sente? Eccoci di nuovo in diretta. Allora, come promesso, adesso ascoltiamo il caso di Narciso da Bergamo. Stamattina siamo ritornati sulla moratoria dei mutui, perché sta entrando sempre di più del vivo, e dal 1 febbraio, praticamente per tutte le banche che hanno aderito all'accordo fra ABI e Associazione dei Consumatori, si darà la facoltà ai clienti in difficoltà di presentare la domanda per sospendere il pagamento delle rate per 12 mesi. Ovviamente ci sono dei parametri e delle condizioni molto stringenti, ma c'è anche, speriamo, un atteggiamento in questo periodo sempre più di buon senso da parte del sistema bancario, che tenta di accontentare per quanto possibile un po' tutti, perché come dicevamo prima non c'è assolutamente alcun interesse da parte della banca di attivare dei contenziosi che non portano mai niente, prima poi di riprendersi la casa per i mutuatari che sono insolventi. Insomma, sono operazioni lunghissime, per cui anche la banca credo che in questo momento abbia tutto l'interesse ad accontentare chi è in difficoltà. Narciso da Bergamo, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Ci dica. Niente, allora, 6 mesi fa la mia rata è stata sospesa perché eravamo in difficoltà io e mia moglie, sì. Lavoravamo al 50% del... e sono andato in banca, ho chiesto un aiuto o qualcosa, e loro mi hanno detto che mi possono sospendere la rata per 6 mesi, mm-hmm. che dovrei ricominciare adesso dal 30 di gennaio. Ah, quindi lei non ha fatto ancora una sospensione, però le hanno dato la facoltà di farne una di 6 mesi. No, l'ho già fatta, quindi da agosto fino... Ah, ecco, quindi dovrebbe riprendere di pagare, mi scusi, sì. Sì, dovevo riprendere da pagare dal 1 febbraio, diciamo. Uh-huh. E mia moglie non ha lavorato questo tempo, cioè riprenderà anche lei dal 1 febbraio. E la domanda che volevo sapere è se posso approfittare ancora anch'io di questa iniziativa qua che sta uscendo adesso. Allora, Narciso, mi sono nel frattempo visto che avevo visto un'anticipazione della sua domanda, ci siamo consultati tra di noi, avvocato Anastasi. Allora, teoricamente il caso di Narciso non è contemplato nell'accordo, per cui lui ha già fruito di una, come dire, una trattativa individuale con la sua banca, e però potrebbe... Ecco. Però io suggerisco all'ascoltatore di, come dire, proprio... come buon senso e proprio nell'ottica di quello che dicevamo poco fa, della flessibilità e del fatto che le banche stesse sono consapevoli della difficoltà di chi ha perso il lavoro in questi ultimi due anni, di provare a trattare con la sua banca e valutare se perlomeno altri 6 mesi potrebbe essere concessa una moratoria per altri 6 mesi. In questo modo arriverebbe a 12, che è la stessa, diciamo, quello che è previsto dal piano, dal piano famiglie, dalla moratoria e dall'accordo, anche se in realtà il nostro ascoltatore ha già fruito di questo accordo separato fatto nel suo caso specifico con la banca. Potrebbe, ecco, provare a sentire la banca se nel suo caso specifico, precisando ovviamente, vedendo se ci sono ancora i requisiti legati appunto al posto di lavoro della moglie e quant'altro, valutare magari, esatto, di ottenere altri 6 mesi, e quindi anche lui usufruirebbe di un periodo di 12 mesi come avviene per chi usufruisce appunto della moratoria che entra in vigore appunto con il 1 febbraio. Narciso ha sospeso il suo mutuo per 6 mesi. Allora, parlo di questi 6 mesi perché questi 6 mesi rientrano anche in qualche maniera nell'accordo sotto forma diversa. Lui li ha pattuiti direttamente con la banca. C'è chi invece in questo periodo, magari per 6 mesi, non ha, negli ultimi 6 mesi, negli ultimi 12 mesi, negli ultimi 3 mesi, non ha avuto modo di pagare la rata del mutuo, però lo ha fatto così senza neanche avvisare la banca, gli è capitato di non poter riuscire a pagare. Eventualmente potrebbe adesso, come dire, sanare in qualche maniera la sua situazione con l'accordo. Però sì, con l'accordo siamo riusciti ad ottenere, proprio perché sapevamo, le associazioni sapevano che c'era questa problematica, nel senso che già qualcuno il lavoro lo ha perduto nell'anno 2008, e quindi è già da parecchio che ha smesso di pagare il mutuo, e quindi si è chiesto che potessero rientrare nel piano anche coloro che già da un po' avevano cominciato a non pagare le rate. Mm-hmm. E quindi si è trovata la soluzione, diciamo così, per cui anche chi ha un ritardo di 180 giorni consecutivi nel pagamento può accedere al piano, per cui 180 giorni sono 6 mesi, se si tratta di rate mensili è un periodo non breve, perché chiaramente sappiamo che purtroppo qualche banca già dopo qualche mese, anche dopo 3 mesi, notifica al cliente la decadenza dal beneficio del termine, e quindi il fatto di aver, come dire, ottenuto questa possibilità di rientrare nel piano anche in caso di mancati pagamenti per 180 giorni consecutivi è molto importante, tenendo presente che qualche cliente che cosa ha fatto? Ha pagato qualche rata nell'anno 2009, per esempio, per qualche mese ha pagato, poi ha interrotto, magari ha pagato i primi 2 o 3 mesi, poi ha interrotto, magari ha fatto ha saltato qualche rata, ma in realtà qualcuna l'ha pagata. Ecco, questi casi possono rientrare proprio perché i 180 giorni devono essere consecutivi. Se invece non fossero consecutivi, quindi nell'arco dei 6 mesi qualche rata è stata pagata, si riesce ad allungare un po' il periodo di mancato pagamento. Quindi sì. Col quale ugualmente si può rientrare all'interno della moratoria. Possiamo dare tutti i criteri generali dell'operazione, certo. Abbiamo capito che qua è tutta questione, Maximilian, quante volte lo abbiamo detto, di puro dialogo fra il cliente e il direttore della banca, che può partire da questi termini generali per poter poi ovviamente pattuire una situazione di sollievo per il cliente, che sia assolutamente a misura del cliente. Peraltro c'è un ascoltatore, guarda, ti chiedo anche questo, visto che ti do il microfono fra un po', che ci chiede se per beneficiare di questo accordo bisogna essere finiti solamente in cassa integrazione o aver attivato anche altre forme di riduzione del reddito, tipo contratti di solidarietà, come ci chiede Luca da Brescia. Ma la condizione è la perdita totale dell'occupazione e insorgenza di condizioni di non autosufficienza. Adesso stiamo ripescando l'accordo. No, attenzione, l'insorgenza di condizioni di non autosufficienza riguarda il mutuatario, riguarda la salute. La salute non riguarda il reddito. Quindi in quel caso sarebbero gli eredi a dover richiedere. Per quanto riguarda... con l'ingresso in cassa integrazione, dice l'accordo anche, sì. Sì, sospensione dal lavoro, riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione della cassa integrazione, sostanzialmente. Io qui, sotto questo aspetto, e lo ricordiamo anche oggi con la pagina in uscita su lunedì, abbiamo fatto un po' un riassunto di tutto quello che serve alle persone che vogliono usufruire della sospensione, tutto ciò che devono presentare. E non è banale, ecco, raccogliere tutta, e non credo almeno che sarà banale raccogliere tutta la documentazione, impossibile per me qui adesso stare a enumerare tutto ciò di cui si ha bisogno, però bisogna fare, ecco, molta attenzione. Io credo che qui ci sarà anche molto lavoro per le associazioni che dovranno aiutare le persone, che perché sarà molto complicato istruire la pratica, cioè in termini di documentazione da presentare. Che cosa serve ad un lavoratore per dimostrare che ha modificato la condizione, appunto, di percezione del reddito, avvocata Anastasi? Siccome in realtà su questa cosa le associazioni stanno lavorando già da alcuni mesi, quindi un po' di istruttoria che è venuto alle associazioni la stiamo già facendo insieme ai nostri utenti. Ci è capitato, per esempio, che le banche ci chiedessero come documenti, al di là di quelli che ovviamente sono indicati nell'accordo e che ovviamente possono essere la lettera di licenziamento, eccetera, ma è capitato che a volte non fosse sufficiente la lettera di licenziamento, ma la banca chiedesse, per esempio, ma questo in realtà ci siamo resi conto, il motivo è legato al fatto che, come dire, anche per un'aspettativa di percezione di redditi futuri, visto che il piano sposta il pagamento, certo, delle 12 rate alla fine del piano di ammortamento. Per esempio, per capire se il cliente, il mutuatario, riuscirà a percepire il suo TFR, ci è stata chiesta della documentazione che accerti il pagamento, per esempio, dei contributi INPS. Perché questo ci ha aiutato, purtroppo, a scoprire che alcune aziende non avevano versato i contributi INPS ai dipendenti. Quindi, diciamo, la situazione di crisi era un domino partito da ben prima. Esatto, e quindi, per esempio, il dipendente potrebbe essere in condizioni di difficoltà anche ad accedere ad alcuni come dire, ammortizzatori sociali, se effettivamente la sua posizione INPS non fosse corretta. Esatto. E quindi la banca, giustamente, capisco, vuole altra documentazione, che quindi non è, non è, voglio dire, impossibile da reperire, perché poi l'INPS questi certificati li rilascia in tempi brevi, ma vuol dire comunque che aumenta sicuramente la documentazione da produrre per il cliente, questo sì. Allora, io volevo ricordare ancora il numero verde per i nostri ascoltatori, 800 24 00 24. Possiamo provare, Gaia, se vuoi, anche a sentire Sergio da Milano, che ha un mutuo piuttosto alto, bloccato già da un po', adesso deve riprendere il pagamento della rata, e anche questo è un tema interessante se riusciamo a recuperarlo. Ci sono molti ascoltatori che ci chiamano chiedendoci: sto stipulando il mutuo, mi conviene più il fisso o il variabile? Non è questo il tema di questa mattina. Quindi non vorrei farvi perdere tempo, sicuramente su questo tema ci ritorneremo presto, perché so che vi appassiona sempre, ma oggi noi stiamo rivolgendoci a quelle famiglie che aspettano che entri nel vivo la moratoria sui mutui per poter sospendere il pagamento della rata per 12 mesi. Quindi stiamo cercando di capire cosa devono fare, che documentazione devono mettere da parte e se rientrano nei parametri chiesti molto esplicitamente appunto da questo accordo, fermo restando che ogni cliente poi può fare un discorso col suo direttore di banca e chiedere delle condizioni migliorative. Allora, un altro tema che dobbiamo affrontare, Maximilian, è cosa succede dopo. E cioè, una volta che abbiamo stabilito intanto che cosa sospendere, perché anche qui c'è un altro dilemma: si sospende la rata integralmente, perché la banca può anche avvalersi della facoltà di sospenderne una parte. Partiamo dalle certezze. Allora, quello che succede è che il mutuo si allunga. Su questo non ci piove, si allunga del periodo, un periodo pari alla sospensione. Lo sospendete per 12 mesi, avete un mutuo di 20 anni, vi diventa automaticamente un mutuo di 21 anni. E questa è già la cosa, una cosa certa. Tutte le quote capitale, perché ricordiamolo, una rata è composta da quote capitale, i soldi che voi rendete alla banca, e quota interesse, cioè gli interessi che pagate per il prestito che ricevete dalla banca. Tutte le quote capitale vengono automaticamente traslate un anno avanti, e quindi per questo il mutuo diventa di un anno in più. Non è chiaro, e Deborah appunto giustamente lo stava dicendo in precedenza, cosa succede alle quote interessi. Non è chiaro, e lo sapremo ben presto, perché la banca potrebbe accettare di sospendere in totale la rata, cioè voi nell'anno in cui sospendete non pagate niente, però gli interessi continuano a maturare quest'anno in cui voi lo sospendete, e questi interessi ve li troverete a pagare in seguito, con modalità ancora da decidere, per cui le rate successive in teoria sarebbero più pesanti, perché oltre alla normale quota capitale, quota interesse, avrete anche gli interessi maturati durante la sospensione da rendere. Che è un po' quasi come se fosse che la banca fa un ulteriore prestito in questo frangente, no? Se vogliamo proprio, come dire, vederla in maniera molto ampia. Esatto, così. Non ci sono certezze a questo punto, e in questa maniera, guardate bene, funziona la sospensione dei mutui per le imprese, proprio in questa maniera, perché le banche hanno consentito in quel caso a sospendere soltanto le quote capitale, per cui non è che, scusatemi, ho fatto un attimo di confusione, stavo dicendo sospendere tutto, non pagare niente, pagare zero in questo anno di sospensione, questa è un'ipotesi. L'altra ipotesi è che uno durante la sospensione continua a pagarsi le quote interessi che maturano, per cui pagherà una parte più o meno rilevante della propria, non pagherà mai zero, ma se ha una rata di 800 potrebbe pagare 100, potrebbe pagare 300, potrebbe pagare anche 500 euro. E in questa maniera le rate future, quando uno riprende il normale piano di ammortamento, saranno assolutamente normali. Allora, qual è il problema di tutto questo? Che secondo l'accordo a decidere è la banca. E vedremo, perché adesso ancora abbiamo detto in precedenza, le banche devono ancora presentare le loro proposte, vedremo come si orienteranno le banche. È chiaro che se le banche, quelle che hanno aderito, che è un po' misto, dato, esatto, c'è chi ha sospeso l'intera rata, chi soltanto la quota capitale. Che succede? Che se uno sospende soltanto la quota, decide di sospendere soltanto la quota capitale, Beh, insomma, il mutuatario può già cominciare a dire: ma come? Ma io non voglio pagare niente, non posso pagare niente. Anche se la quota degli interessi sicuramente è marginale, adesso è minima, però comunque c'è. Attenzione, e questa è un'altra questione. La quota di interessi potrebbe essere tutt'altro che minima. Io rimando anche agli esempi che facciamo oggi sul numero del lunedì del Sole 24 Ore. C'è un caso un po' particolare, ma in cui si possono trovare molti mutuatari, cioè un mutuo mettiamo da 30 anni, cioè molto lungo, nei primi anni di vita. Noi abbiamo fatto a metà 2008, ecco, in questo caso noi avremo una rata, questo è un mutuo da 150.000 euro, quindi che rientra pienamente, avremo una rata normale che è di 899 euro. E nel caso di sospensione totale la rata, è chiaro, sarebbe di 0 euro, ma nel caso di sospensione parziale, cioè soltanto della quota capitale, la rata sarebbe di 732 euro. Ora io mi chiedo come fa una persona che lavora a pagare 732 euro, per cui infatti, è chiaro, cioè, che il anche beneficio in questo, è assolutamente nulla, è una sospensione nulla questa. In questo caso sarebbe auspicabile che le banche decidano caso per caso e anche sentendo il mutuatario, certo. Perché è anche vero che alcuni mutuatari potrebbero essere in grado, pur non avendo lavoro, pur avendo la cassa integrazione, di pagare comunque una quota. E questo conviene al mutuatario, perché non se la trova dopo, ecco, molto banale. Allora, 800 24 00 24, vi ricordo ancora il numero verde per intervenire a Salva Danaio. Vi consiglio anche di dare un'occhiata a questo specchietto elaborato appunto dal Sole 24 Ore, magari qualcuno di voi proprio per ricadere in uno di questi casi appunto che sono stati presentati, che sono stati elaborati. Peraltro qui vedo Maximilia, poi adesso devo dare suggerimenti perché in viaggio magari ci ritorno. Comunque il caso che si fa è quasi esclusivamente di mutuo a tasso fisso, ma potrebbe essere anche che, anche se le famiglie lo hanno visto sensibilmente ridimensionato in questo momento, anche chi paga una rata minima adesso perché ha il tasso variabile, i tassi sono diventati molto convenienti, può anche aver bisogno di liberarsi anche di quella rata minima. Sì, gli esempi per questione di semplicità, certamente. Per calcolare anche tutte le rate future sono state fatte. No, perché anche quello fisso. Poi è un tema interessante, perché se in quest'anno i tassi variabile... sono, ammettendo che appunto si paghino, che l'abbattimento della rata avvenga integralmente, e quest'anno i tassi riprendono a salire, come ricalcola poi la banca la ripresa? Ci sono tanti casi, insomma, da prendere in considerazione. Allora, vorrei sentire intanto, prima di tornare su alcuni aspetti che abbiamo lanciato prima della nostra pausa, un altro ascoltatore che ci chiede di ribadire in realtà alcune cose che abbiamo già spiegato con il primo ascoltatore che è intervenuto, ma forse questi sono gli aspetti che più vanno ribaditi per gli ascoltatori. Allora noi risentiamo anche il caso di Alessandro da Cuneo. Alessandro? Sì, buongiorno. Buongiorno a lei, ci dica. Buongiorno, io e mia moglie abbiamo ottenuto un mutuo nel 2007, quindi più di 2 anni fa, a luglio 2007. A luglio 2009 ho perso il lavoro per una riduzione del personale da parte dell'azienda. Sì. No? Io ho chiesto la sospensione del mutuo e l'ho ottenuta a settembre. Questa sospensione che mi è stata concessa è di 6 mesi. Sì, quindi... perché in quel periodo forse non c'era alcun accordo, non c'era ancora... mi aveva spiegato il direttore di banca che era un piacere che mi hanno detto così. Poi non sì, so. Vabbè. E purtroppo io al momento non ho ancora trovato lavoro e a marzo dovrebbe ripartire la rata. Alessandro, ci dice quanto è ampio il mutuo? E 30 anni, la rata è purtroppo di 1.150 euro. Mm-hmm. Così tanto, vabbè, poi diciamo è irrilevante ai fini dell'accordo. Fisso variabile, ce lo può... Sopra i 150.000 euro. Mm. È un fisso e supera i 150.000 euro naturalmente, supera immagino. 150.000 euro, sì. Allora, Alessandro, beh, intanto sicuramente ha ragione il direttore, nel senso che a settembre ancora questo accordo non c'era, era così in costruzione, avvocato Anastasi. E niente, lui probabilmente la prima cosa che deve fare è sicuramente ritornare a parlare col direttore, spiegargli che le cose rispetto a settembre non sono cambiate, sono cambiate. E che però sono cambiate, però che, nel senso che c'è un accordo, quindi potrebbe... Il vero limite per lui potrebbe essere dato dalla quota del mutuo, cioè dal fatto che su un mutuo supera i 150.000 euro, che sono quelli indicati nell'accordo. Ah, già è pur vero però che siccome l'accordo prevede anche che le banche possono proporre condizioni migliorative al cliente, quindi proprio in questo senso suggerisco assolutamente all'ascoltatore di sentire la banca, perché è vero che il suo mutuo più elevato, però è anche vero che se la sua banca si rende conto comunque che la situazione va gestita come caso singolo eccetera, potrebbe valutare appunto di concedergli ancora un periodo, ripeto, in questo caso come dicevamo con l'ascoltatore di prima potrebbero essere ancora 6 mesi, quindi anche lui andrebbe a usufruire in complesso di 12 mesi di sospensione. Ecco, però come ribadivamo prima, è sempre legato a un accordo diretto con la banca, proprio perché diciamo l'accordo ha previsto un limite di 150 euro, pur indicando che però gli singoli istituti di credito possono ampliare questa offerta al cliente e comunque in ogni caso la discrezionalità della banca nel trattare con il singolo cliente è totale, e quindi voglio dire potrebbero essere anche cifre più interessanti, più consistenti, però la banca, se capisce che, se come dice il nostro ascoltatore, lui il lavoro ancora non lo ha ripreso e magari lo riprenderà fra 3-4 mesi, speriamo per lui, in questo momento comunque la necessità di tenere sospeso il mutuo c'è ancora. Infatti, un'altra cosa che volevo precisare, qualora a qualche banca o a qualche filiale saltasse in mente anche di fare questo, è che comunque qualora si accontentasse il cliente, quindi ammettendo che ci siano tutte le condizioni per la sospensione del mutuo, non deve essere pagato niente. No, per non questo, ci sono spese, oneri, ecco, aggiuntivi, certo, assolutamente no. Questo, no, perché magari insomma, nell'accordo la banca è previsto dice, in maniera ho messo molto a lavorare chiara per 2 giorni un impiegato, certo, per fare un no, po' una valutazione del tuo caso, esatto, allora ti do 10 euro, però potrebbe anche essere che capiti, insomma, Maximilian. No, è una soluzione, ricordiamo, spese zero, è una soluzione onerosa, nel senso che uno aumenta di un anno il piano di ammortamento e durante questo anno vengono calcolati normalmente gli interessi. In questo senso sì, è più onerosa, non si aspetti che durante l'anno di sospensione non vengano calcolati i tassi di interessi, però, ecco, normali, sì, interessi contrattuali, insomma, se uno c'ha un tasso variabile in quest'anno saranno molto bassi, se uno c'ha un fisso saranno un po' più elevati. Roberto da Milano, buongiorno. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Grazie a lei. Senta, la mia domanda è questa, per conto di mia figlia, lei nel 2000 ha contratto un mutuo assieme al marito. Sì. Poi nel 2006 purtroppo il marito ha avuto un incidente e mia figlia è rimasta vedova. Sì. Adesso chiedevo se mia figlia con queste caratteristiche ha la possibilità di chiedere questa sospensione, che le farebbe abbastanza comodo. Sì, il problema è che questa persona è deceduta nel 2006 e l'accordo invece prevede che un evento così disastroso per una famiglia sia capitato, sia intervenuto nel 2009. Avvocata Anastasi, su questo sì, mi sembra piuttosto chiaro. Sì, sì. Detto questo, ritorniamo un po' sui criteri. Solito discorso, io comunque suggerisco alla ascoltatore di rivolgersi comunque alla banca, di fare presente il problema. Ne approfitto anche per dirlo, ecco, tutti i dubbi che ovviamente gli utenti hanno, perché chiaramente gli specchietti sono molto chiari, però ognuno ha una situazione specifica. Rivolgetevi alle associazioni dei consumatori, perché così si potrà valutare insieme e magari contattare poi direttamente la banca e vedere anche quando effettivamente, come nel caso dell'ascoltatore, l'evento non si è verificato nel periodo previsto dall'accordo, però insomma cercare di vedere come si può aiutare questo cliente insieme. Allora, io adesso mi ero raccomandato ai nostri ascoltatori di non chiedere se fosse più conveniente adesso prendersi il mutuo a tasso variabile piuttosto che il fisso, e quindi non volevo proprio uscire dal seminato di questa mattina, però abbiamo accettato volentieri di prendere la domanda di Aurelio da Pescara, perché voglio farmi anche un po' una risatina con Maximilian Cellino su un grande cavallo di battaglia sia delle sue pagine che di questa trasmissione, e per capire un po' che risultati ci ha portato. Ti faccio sentire così a bruciapelo, Maximilian, la domanda di Aurelio da Pescara e poi sentiamo. Aurelio, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, io il mio quesito era questo, visto che parlavamo di banche e di mutui. Non lo so se è inerente, però... Non credo, però guardi, stiamo finendo, quindi ci andiamo anche su questo argomento rapidissimamente. Sì, grazie, rapidissimamente. Allora, io ho un mutuo del 2004, variabile, e quest'anno semestrale, scadenza giugno, mi arriva il 4,30% di interesse. Siccome c'era la legge Tremonti, io pensavo fosse in automatico che ci fosse il tetto al 4, no? E quindi ho chiesto, ho scaricato su internet un facsimile della richiesta di questo rimborso, dello 0,30, e l'ho mandato, ho fatto la raccomandata. Dopodiché, dopo 10 giorni, casualmente, mi arriva la stessa richiesta che dovevo fare io dalla banca, sì, l'ho rifatta di nuovo e quindi da settembre, dal 9 di settembre, io sto ancora aspettando il rimborso. Ho sollecitato anche all'ufficio mutui, mi hanno detto si rimpalla un pochino la palla perché da Roma e poi all'ufficio qui all'agenzia, sì, sì, insomma non è chiaro. Aurelio, la ringrazio, guardi, questo è veramente un tema che noi pensavamo di accantonare abbastanza rapidamente. Maximilia, se ci vuoi tornare, no, anche per fare in modo così di sollecitare di nuovo l'attenzione sulle banche, non fate che sulla moratoria sui mutui le cose vadano così a rilento, le situazioni sono molto differenti, lo capiamo, lì c'è stato tutto l'intervento dell'Agenzia delle Entrate che ha dovuto certificare la come dire, presenza o meno dei requisiti per poter avere il ritorno degli interessi eccedenti il 4%, e però Maximilian, allora diciamo scanso di equivoci che molti l'hanno già ricevuto, sì, e la gran parte l'hanno già ricevuto, per qualcuno ci sono ancora problemi, è importante tornarci per un semplice motivo, che il 31 gennaio prossimo, a fine mese, scade, c'è una scadenza importante, l'ascoltatore parlava di fare una richiesta, non doveva fare nessuna richiesta tranne nel caso in cui non fosse sollecitato dalla banca, nel caso in cui non fosse compreso nella famosa lista dell'Agenzia delle Entrate. Allora, esiste tempo fino al 31 gennaio 2010 per fare questa richiesta alla propria banca. Quindi l'unica cosa che posso dire è chi ha qualche dubbio si affretti comunque a farla prima della scadenza, poi vedremo e ne discuteremo magari anche in un'altra puntata. Grazie all'avvocato Stella Anastasi per essere tornata da noi, grazie a Maximilian Cellino, troppe Z questa mattina e X anche, quindi io vi saluto, ritorneremo su questo argomento, vedremo un po' a febbraio che cosa accadrà e quanta mole di documentazione le banche dovranno gestire appunto per accontentare le famiglie che vogliono sospendere il mutuo. A domani. Salva Danaio.